Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che una nuova generazione di liquidi refrigeranti sta per sostituire quella vecchia. Parliamo dei liquidi che circolano nei normali condizionatori, quelli che abbiamo in casa, nelle pompe di calore, eccetera, eccetera. E abbiamo sottolineato che questi nuovi liquidi saranno più rispettosi per l'ambiente, ma anche più difficili da trattare, per cui insomma sarà necessario fare formazione. A quanto pare siamo stati molto ottimisti a pensare che quello fosse il problema. Infatti nel 2012 l'Italia ha anche dato attuazione a una direttiva europea, che è del 2006, la quale prevedeva, pena pesanti sanzioni, l'obbligo di certificazione anche per tutti coloro che maneggiano appunto i vecchi gas refrigeranti, i cosiddetti gas fluorurati. Gli operatori, aziende e privati hanno avuto un certo periodo per adeguarsi a questa normativa, questo tempo a disposizione ora è scaduto, ma la situazione a vedere i numeri non è affatto buona, con il rischio che a pagare siano i cittadini. Ci facciamo spiegare tutto da Paolo Gianoglio, che è direttore generale di ICIM, che è uno insomma dei principali enti certificatori in Italia. Buonasera Gianoglio. Buonasera anche agli ascoltatori. Allora, cominciamo da qualche numero, i numeri di queste certificazioni. Chi avrebbe dovuto certificarsi e a che punto siamo oggi? Allora, avrebbero dovuto certificarsi sostanzialmente tutti gli operatori della filiera che utilizzano gas refrigeranti, quindi le aziende che fanno installazione, manutenzione, ricerca perdite di gas refrigeranti, gas fluorurati refrigeranti. I numeri che noi abbiamo, che sono numeri ufficiali perché si ricavano dal sito fgas.it, che è il sito diciamo messo a punto dal sistema camerale proprio per registrare tutte le persone certificate, a fine di aprile ci dicono che di tutte le diciamo gli addetti, le persone che avevano fatto richiesta di una certificazione provvisoria, quindi in qualche modo avevano definito la loro esigenza di essere certificati, solo il 70% circa ha ottenuto questa certificazione e i tempi previsti dalla legge sono già scaduti da qualche mese, diciamo orientativamente da fine dicembre del 2013. Ma questo non basta, perché la normativa italiana prevede non solo la certificazione del singolo addetto, quindi della singola persona a fronte delle competenze verificate con un esame anche di carattere pratico, ma richiede che l'azienda per cui questa persona opera, anche le aziende uninominali, quindi con una persona con un solo addetto, debbano ottenere una certificazione che riguarda la strumentazione che utilizzano e tutta una serie di procedure che devono adottare. E qui i numeri, anche qua, quali sono? I numeri qua sono decisamente peggiori, siamo intorno al 20% in questo momento di aziende certificate. E qui veniamo al bello, perché che cosa succede se per esempio ci si fa manutenere l'impianto da qualcuno che non è certificato? Beh, per la legge italiana che ha recepito la direttiva, la persona, il proprietario è equiparato alla figura di operatore e quindi risponde per tutti gli obblighi dell'operatore, che riguardano anche il fatto di affidare la manutenzione a personale certificato, e quindi qui c'è un decreto che stabilisce una serie di sanzioni anche particolarmente onerose, da 10.000 euro fino a 100.000 euro per gli operatori che affidano l'attività di controllo e riparazione delle perdite a personale non in possesso del pertinente certificato, ma questo anche nell'ambito per esempio dell'affidare la manutenzione ordinaria a personale che non abbia l'adeguata certificazione. Quindi è tenuto il proprietario a verificare la certificazione della persona a cui mette in mano il proprio impianto, altrimenti rischia una multa che va dai 10 ai 100.000 euro, che non sono proprio bruscolini. Poi, se ho capito bene, addirittura se ne rischiano due di multe. Sì, perché vengono divise le diverse operazioni, quindi la ricerca perdite è un'operazione diversa per esempio dalla manutenzione ordinaria, solo che nell'ambito dello stesso intervento potrebbero essere fatte tutte e due le cose. E uno quindi si becca due multe. Sì. Vabbè, fantastico. Senta, allora che cosa bisogna chiedere? Come si fa a tutelare da una simile eventualità? Allora, le persone certificate sono in possesso di un badge rilasciato dall'organismo che li ha certificati, che attesta il fatto che appunto hanno la certificazione per poter operare su apparecchiature con gas fluorurati, ma non basta, bisogna anche tutelarsi e richiedere all'azienda che presenti o autocertifichi la propria certificazione, l'ottenimento della certificazione per i gas fluorurati. si possono anche fare delle verifiche, il sito è www.fgas.it dove sono nel registro, è possibile cercare sia il nome delle persone sia i riferimenti dell'azienda a cui si sta affidando la propria manutenzione. Grazie Gianoglio. Grazie a lei. Salve, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.